Allora, ci aiuti a fare un po' di chiarezza? Non si potrà più fumare o comunque comprare cannabis light? No, ecco, questa è una fake news. Oggi anche il sito Bufale un tanto al chilo ha meglio spiegato, ecco, che cos'è quella sentenza, che aveva creato comunque tante aspettative sia per noi operatori del settore che anche per chi è ferocemente contrario al fenomeno che abbiamo lanciato 2 anni fa, e quindi i primi lanci di agenzia sono stati, diciamo, interpretati e tirati un po' per la giacchetta, per cui tutti i titoli erano la cannabis light è illegale. Poi a leggere meglio il testo, quelle 7 stringate righe, cioè da attendere un po' di tempo perché vengano pubblicate le motivazioni estese, è un testo che si presta a un'altra lettura più ponderata, perché la Cassazione dice che appunto l'infiorescenza non è contemplata, il commercio di infiorescenza non è contemplata dalla legge 242 per l'agricoltura della canapa, e questo lo si sapeva dall'inizio, da quando siamo partiti con la commercializzazione del fiore, fatta apposta per segnalare alle istituzioni lo sbaglio fatto nel momento della compilazione della legge. E poi l'altra cosa che dice la sentenza della Cassazione è che è vietata la commercializzazione a meno che non abbia in concreto capacità drogante. Quest'ultimo inciso, sono le ultime parole della sentenza, lascia aperta la situazione esattamente come era il giorno prima della sentenza. Cerco di spiegarmi meglio. La cannabis industriale, la canapa industriale, per definizione legislativa e italiana e comunitaria, è quella canapa che ha un tenore di THC non capace di creare effetto psicotropo. E quindi inferiore allo 0,2, giusto? Ecco, il dubbio è qua, sì. Adesso lo lascio un attimo generica come cosa. Quindi sì, i prodotti che non hanno capacità drogante, ossia i derivati della canapa industriale, sono esclusi dalla decisione della sentenza. Ora, capacità drogante, qua serve aspettare le motivazioni e vediamo se per la prima volta in 2 anni un qualcuno si prende la briga di segnare la percentuale e la capacità drogante. Se si segue la legge italiana e le direttive comunitarie, la cannabis industriale è quella con un THC inferiore allo 0,2%. Se invece la Cassazione segue le sue sentenze, la capacità drogante è lo 0,5%. Perché? Perché 4 anni fa, nel 2015-2016, già la Cassazione a sezioni unite ha definito come capacità drogante della cannabis e derivati il valore superiore allo 0,5%. Quindi oggi l'unico elemento di incertezza che questa sentenza andrà a svelare, ci auguriamo, con le motivazioni estese, è se la capacità drogante della fiore di canapa industriale deve essere al di sotto dello 0,2 o dello 0,5%. Questo è quanto. Non si chiudono negozi, non ci sono sequestri, o meglio ci saranno ma verranno dissequestrati, insomma tutto abbastanza identico a quello che era il giorno prima. Certo, in ogni caso, sentenza o non sentenza, in Italia rimane un vuoto legislativo? Sì, dal primo giorno di applicazione della legge noi segnaliamo questo vuoto legislativo, ci siamo introdotti nel vuoto legislativo per renderlo evidente e siamo al punto di partenza, cioè la politica non è riuscita a colmarlo, non è riuscita a specificare la normativa e per ora nemmeno la magistratura, piano B, è riuscita a meglio esplicitare quella che sono i limiti, ecco, di questa legge. Certo, ecco, non ti faccio ripetere quello che ripeti in trasmissione tutte le settimane, esatto. però ci sono, come dire, alcuni dati che abbiamo già commentato, insomma, molto molto interessanti in questi primi mesi, primi anni, appunto, di Cannabis Light, la sottrazione al mercato mafioso, appunto, del 14%, appunto, di questo mercato. No, non gonfiamo, no? 12. Scusami, ho letto male. E un altro dato che vedevo, visto che siamo in tempi ancora di crisi, quindi il lavoro è sempre più un miraggio, comunque migliaia di posti di lavoro. Sì, allora per me il dato più interessante e poi spiego il perché, è quello studio dell'Università di York che dimostra come un sostituto imperfetto della marijuana oggi illegale, imperfetto perché non contiene THC, sia riuscito in questi 2 anni a sottrarre circa il 12% dei proventi della criminalità organizzata. Quindi il fenomeno della cannabis light è un fenomeno buono anche perché è un fenomeno antimafia. L'altro dato è questo: si calcola circa in 15.000 i posti di lavoro nati in questi 2 anni, soprattutto nell'ultimo anno. Si sono decuplicati gli ettari coltivati a canapa per la produzione del fiore, da 400 ettari a 4.000, dati Coldiretti. Si è creato un indotto abbastanza importante che rischia di essere distrutto e disintegrato, da una parte per il furore ideologico contro la droga, poi semplice prendere l'elenco del telefono e andare a chiudere i negozi che non vendono droga, però è così, da una parte. E dall'altra, appunto, si regala, si ritorna a consegnare un 12% dei proventi alla criminalità. Scusate, abbiamo sbagliato, dice lo Stato, eccovi a voi questa fetta che comunque dei giovani imprenditori sono riusciti a sottrarvi. Scusateci, eccola ancora per voi. Poi ci stupiamo se in certi paesi della Calabria o della Campania i partiti di governo superano abbondantemente il 60%. Una lettura interessante questa, insomma, no? Ci sono state tante analisi del voto, c'è da tenere conto anche di questo. Però, insomma, a noi piace sempre parlare anche dell'aspetto ludico, no? Del resto, quando si parla di cannabis, spesso si parla anche di aspetto ludico. Tu hai lanciato una proposta che riguarda la salvina. Che cos'è? La salvina è la pianta resistente, diciamo. Come Easy Joint, la prima risposta... Qua si va indietro di qualche settimana a quella conferenza stampa di Salvini che ha detto chiudiamo i negozi uno a uno, ricordo come ancora non ci sia riuscito. Allora come risposta per mantenere questo dibattito nel suo giusto alveo, ossia quello della commedia dell'arte in un certo senso, o della barzelletta, la caccia il rendere illegale il commercio della canapa legale, ecco, è già di per sé abbastanza buffo, se non è poi drammatico, ecco, quello che potrebbe accadere. Noi abbiamo lanciato appunto la vendita delle piantine di canapa certificate, insomma a norma, per cui non si rischia nulla, coltivatela a casa vostra, tanto per scimmiottare un po' uno slogan che troppo spesso abbiamo sentito. Quindi oltre agli striscioni sui balconi, magari anche una piantina di canapa come testimonianza della sciocchezza di questa nuova caccia alle streghe, quindi la salvina, la pianta resistente, ecco. Bene, quindi ma per questo motivo sì. È sì legale, quindi non si rischia niente, ma la questione sulla cannabis light non è soltanto una questione di posti di lavoro che vengono a essere tolti, eccetera. Non è soltanto questo, cioè l'attacco alla cannabis light è un attacco alla sfera della libertà individuale, quindi riguarda tutti, i consumatori e i non consumatori. Si impedisce un prodotto che il consumo, l'acquisto di un prodotto che non ha, che non è droga fondamentalmente, quindi c'è un'intrusione dello Stato nella libertà dell'individuo. È da parte di chi è contrario una campagna ideologica, è riduttivo trasformarla soltanto in una lamentela sul negozietto che chiude o i posti di lavoro che vengono a mancare, quando la questione è ben più grossa. Ecco quindi come una pianta completamente legale, quindi sul cartellino eccetera, ritorna ad essere un simbolo, così come da contrapporre al simbolo del piccolo negozio che droga la nostra gioventù. Ecco, questo è il giusto livello dello scontro. Certo, del resto, insomma, che sia un dibattito ideologico lo testimonia il fatto che nessuno parla mai di alcol, nonostante i tanti morti provocati, di eroina, esatto. Di policonsumo, di consumi giovanili, dell'eroina ritornata anche nelle vene dei giovani come non era dagli anni 80,